E allora sfumiamo questa canzone degli ultimi e andiamo in diretta con Ilenia che ci parla di quello che sta accadendo al Metropolitan. Pronto? No, quello che è accaduto al Metropolitan, perché l'occupazione che abbiamo fatto è stata un'occupazione temporanea, per cui adesso al Metropolitan stanno murando le porte, quindi questo è quello che in questo momento sta accadendo. Quello che è successo martedì è che una rete organizzata di lavoratori dello spettacolo, quindi teatro, danza, cinema, tutto l'audiovisivo, insieme a ricercatori dell'università, precari e non, e studenti, dopo un'assemblea organizzativa, nel ciclo di questi blitz che stiamo tentando di fare, no? Quasi settimanalmente, quindi blitz nei teatri dopo le manifestazioni di dicembre, come rete organizzata di lavoratori dello spettacolo, ho fatto un flash mob davanti al Metropolitan e poi da lì siamo entrati e abbiamo occupato il Metropolitan. Siamo entrati tutti dentro, eravamo 200-150 persone, lì abbiamo fatto assemblea e dopodiché abbiamo nell'arco del tempo che facevamo l'assemblea si è allestito tecnicamente la situazione per fare una proiezione e quindi abbiamo proiettato la grande guerra di Monicelli. Nel frattempo ci sono state trattative con le forze dell'ordine, anche piuttosto nervose sui minuti, quindi abbiamo tenuto per un tempo, alla fine abbiamo siamo riusciti a tenere per il tempo dell'intera proiezione del film, abbiamo visto il film e poi facendo una decisione assembleare di prospettiva, l'intenzione era quella di fare appunto un blitz temporaneo e quindi liberamente poi siamo usciti dal cinema. Sì, perché il Metropolitan è l'ennesimo spazio di questa città culturale che chiude e viene riconsegnato alla sì. Speculazione, ma quello che ti volevo chiedere è che uno quando pensa, no, magari al mondo della cultura dello spettacolo pensa a un mondo in qualche modo di privilegi, in realtà la condizione sociale ma anche di vita materiale di quelle persone che scelgono per vita, per attitudine, per mestiere di vivere in quel mondo in realtà si scontra con una realtà peggiorata anche della crisi ben diversa, non solo appunto per gli artisti ma anche di tutte quelle centinaia di persone che vivono in qualche modo nell'indotto dell'industria culturale, sì, tecnici, eccetera, eccetera. Certo, infatti è esattamente quello che stiamo tentando di portare avanti. C'è chiaramente un pregiudizio culturale in Italia, no? Appunto, che chi lavora nella cultura sia un privilegiato, aggravato dalle politiche anche degli ultimi anni che marginalizzano, che trattano lo spettacolo come fosse intrattenimento, come fosse un hobby. Chiaramente c'è un indotto, una fascia di lavoratori amplissima, nello spettacolo siamo 250.000, quindi quando si parla di Italia alla cultura non si parla solo Italia alla cultura in senso astratto, bisogna subito pensare immediatamente taglia posti di lavoro, taglia l'occupazione, posti di lavoro che, come dicevi, per lo più sono anche difficilmente conteggiabili, a differenza del lavoro, se chiude una fabbrica immediatamente abbiamo un dato visibile, concreto, però qua i posti di lavoro spesso sono invisibili perché nel settore della cultura c'è un dato strutturale che è quello dell'intermittenza, cioè il lavoro non è continuativo per sua natura. Poi che c'è una precarietà strutturale. C'è una intermittenza strutturale aggravata da una precarietà che invece è frutto di politica e di un progetto politico, perché quello che c'è adesso in Italia non è solo il frutto della crisi, è frutto di come le politiche gestiscono la crisi. Siamo un settore in cui non c'è nessun tipo di garanzia sociale, nessun tipo di riconoscimento dell'intermittenza, quindi al di là di pochi privilegiati o di pochi nomi famosi, che sono quelli che poi magari sono visibili e che difficilmente poi riescono a comunicare anche la situazione reale che poi ci viviamo. Quello che c'è è un vero e proprio bracciantato artistico e intellettuale, come dicevi tu, gli artisti, quelli che sono in scena, che scrivono, ma anche i tecnici, gli artigiani del teatro, del cinema, mestieri che richiedono una grandissima competenza professionale, tantissima formazione, oltre che appunto una passione, una dedizione, a fronte di un riconoscimento sia sociale sia economico e salariale bassissimo. Tra l'altro ci sono dei meccanismi nel nostro settore di fortissimo ricatto individuale, quindi quello che abbiamo davanti è una struttura già appunto di intermittenza, dei tempi di lavoro, però non necessariamente dovrebbe essere intermittente il reddito o la garanzia o i diritti dei lavoratori. Invece quello che si sta costruendo è chiaramente esattamente, come dire, è come se quello che sta succedendo a Mirafiori avesse avuto un modello, diciamo, a livello sociale e politico, e il modello sono proprio lavoratori della conoscenza e dello spettacolo, difficilmente individuabili, molto ricattabili, precarizzabili immediatamente, diciamo, a livello individuale nel contratto, e quello è il modello sociale di diritto che si esporta. Quindi è una sorta di laboratorio politico quello che viene fatto nel nostro settore, proprio perché meno visibile, proprio perché comunque spesso anche, come dire, molti di noi per vocazione sia artistica sia produttiva, come dire, hanno una forte progettualità di indipendenza, quindi comunque i progetti poi si fanno comunque spesso in spazi, in situazioni autofinanziate o indipendenti. È anche una caratteristica questa del nostro lavoro, no? Che fa saltare un po' la categoria tra dipendente e imprenditore. Un'ultima, ti voglio chiedere un'altra battuta. Sì. Parte, insomma, la vostra condizione, e ti dicevi, no, ci sta un problema di tagli anche alla cultura che che ricasca immediatamente sulla condizione soggettiva e di vita materiale di migliaia e migliaia di persone. Noi assistiamo a una giunta in crisi, a una giunta Alemanno che balpetta rispetto alle condizioni anche di questa città in moltissimi settori. Uno di questi, dove sono arrivati i tagli più pesanti, sono anche quelli alla cultura. Sì. Soldi comunque dati sostanzialmente agli amici, neanche agli amici degli amici, proprio ai suoi amici, con ad esempio quella follia di quel tendone itinerante gestito da Maurizio Costanzo, in cui il massimo, diciamo, evento proposto alla città era Gigi D'Alessio, e con cui sono stati spesi 250 milioni di euro. E mentre non un soldo è andato alla produzione indipendente o comunque a quelle migliaia di iniziative che te raccontavi, che poi magari anche senza soldi, anche senza i finanziamenti, anche senza gli spazi si fanno comunque. Certo, ma è come se nel piccolo delle politiche territoriali, nel piccolo poi relativo, perché Roma, insomma, anche invece un grosso circuito, si vede esattamente riprodotto quello che sono poi le politiche governative. Quello che sta succedendo a Roma è esemplare, cioè si allontana dal centro, si svuota il centro di tutte le attività culturali indipendenti, di qualità. Il cinema Metropolitan, c'è un rapporto di grande affettività, voglio dire, della cittadinanza che lo ha vissuto, l'ha attraversato, i luoghi sono anche e soprattutto di chi li attraversa, di chi li vive, non solo di chi li possiede e può farne quello che vuole. Più tutta la situazione di cintura, dal Teatro del Lido di Ossia al Teatro di Quarticciolo, posti costruiti, diciamo, sulla progettualità di chi li vive in periferia, e anche quelli, come dire, sotto attacco, e via andando. Così quello a cui ci stiamo è proprio un vero e proprio progetto sistematico, per cui o si inizia a avere anche noi, questo mi riferisco proprio a chi ci lavora in questo settore, una visione d'insieme, sia nelle questioni specifiche, territoriali e settoriali, ma anche appunto avere la capacità di leggere, come hanno fatto nelle università, insomma, quello che sta accadendo come un progetto più generale, quindi anche vedere le connessioni con gli altri lavoratori al di là dei settori, e quindi avere la capacità di costruire un'analisi, ma anche una lotta, insomma, in questo senso così allargata e di ampio respiro. Altrimenti le battaglie settoriali o esclusivamente territoriali in questo momento, con questo attacco, insomma, così violento, difficilmente porteranno a qualcosa. Quindi questa è un po' la prospettiva su cui stiamo tentando di lavorare anche noi. C'è una rete auto-organizzata di lavoratori. L'occupazione del Metropolitan non ha avuto nessun tipo di sigle, ma davvero gli individui auto-organizzati in rete, quindi è qualcosa anche di inedito rispetto a quello che abbiamo sempre visto, molto nuovo, molto anche fragile, che stiamo tentando di costruire, insomma, una sorta di soggettività politica che finora, come ha avuto altri meccanismi di rappresentanza, falliti completamente.